Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi ci accompagna in questa prima parte della trasmissione Alessandro Manzoni. A lui infatti è dedicato un libro di Silvia Giacomoni, che è una giornalista e scrittrice, che ha pubblicato con Guanda 4 ritratti stravaganti, 166 pagine, 13 euro. Perché 4 ritratti stravaganti? Perché l'autrice considera Manzoni da 4 angolature particolari, approfondendo il carattere, la vita, l'opera del grande scrittore, e quest'opera viene condotta con una tecnica particolare. La Giacomoni infatti assembla con un filo narrativo varie voci di testimoni e studiosi del Manzoni, da Goethe a Sciascia, e ne fa emergere un ritratto attuale e anche tormentato, volto a farlo scendere dal piedistallo per renderci Manzoni attuale e vicino. È un'opera meritoria questa della Giacomoni, perché naturalmente merita che il Manzoni ci venga riproposto con questo tono più amichevole, e quindi il suo libro ci permette anche di addentrarci in alcune pieghe della psicologia del Manzoni che magari sono meno note, che servono a spiegare molto anche alcuni brani delle sue opere, soprattutto dell'opera principale Promessi Sposi, che vengono riprodotti nel libro. Io proverò ad avvicinarmi alla psicologia del Manzoni intervistandolo in questa intervista impossibile. Si è prestato questa volta a dare la voce ad Alessandro Manzoni Gianmarco Gaspari, docente universitario e soprattutto direttore del Centro Nazionale di Studi Manzoniani, che è sito nella casa in cui Manzoni visse per circa 60 anni fino alla sua morte e che tutti potete sempre visitare a Milano in via Morone all'1. Buongiorno Don Alessandro. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Conosce questa parola, ascoltatori, sì. Ma sa, ogni tanto do un'occhiata fuori e mi pare che sia una parola che circola, ecco, sì. Almeno l'orecchiata. Senta, ma in questi orecchiamenti si è accorto che il suo romanzo in fondo non è così popolare? Il romanzo più importante della letteratura italiana almeno degli ultimi 3 secoli, ma certamente non è poi così popolare. Come se lo spiega questo fatto, Don Alessandro? Ci sono rimasto un po' male, eh. Devo dire che ci avevo lavorato tanto, è andato bene all'inizio, ma capisco che ora i tempi siano diversi, almeno a quanto mi capita di vedere in giro le poche volte che mi muovo. I cambiamenti ci sono, sensibili, è cambiato il gusto, sono cambiate le cose, oddio, gli ingredienti poi mica tanto, ma la lingua, ho l'impressione che anche quello conti, è difficile da leggere, mi dicono. Però sa che poi quando qualcuno lo legge in età un po' più adulta, perché adesso siamo obbligati a leggerlo a scuola il suo romanzo, e quindi lì tutti lo detestiamo, o meglio, molti lo detestano, poi magari verso i 30-40 anni qualcuno lo riscopre, sa. Ah, quello è anche quello, credo che conti. E la scuola non ha mai fatto un favore ai grandi autori. Ci facevano leggere a memoria e imparare a memoria Virgilio, e poi mi piaceva quando lo leggevo da solo, ma a memoria no, l'obbligo certamente non aiuta, ecco. E credo che anche in questo caso, lei dice, lo fanno studiare ancora oggi. Sì. Non mi pare un gran risultato, forse speravo qualcosa di diverso, poi anche la lettura così pedestre, scolastica, magari con le note. Sì, certo. È quello che temevo. Lei lo farebbe leggere in una maniera diversa? Ma chi lo sa, forse anche a pezzi, forse ci sono episodi interessanti, in fondo c'è anche un po' di azione. È un peccato perderlo così dietro l'erudizione, i commenti, questa pedanteria che forse non mi meritavo, o forse sì, chissà. Ma diciamo di no. Senta, ma come fa, confrontando il suo romanzo con la narrativa di oggi, che certo lei seguirà, che impressione si è fatto delle nostre lettere? Dunque, intanto non bisognerebbe mai parlare male dei colleghi. Dal poco che vedo, intanto anche perché di librerie non se ne vedono molte, soprattutto per esempio in centro a Milano, ma da quello che vedo, ho preso in mano libri molto venduti. Mi hanno consigliato uno, un siciliano, credo. Ma Dio, se quello è l'italiano, io francamente ho dei problemi. Illeggibile. Non ha sciacquato i panni l'Arno, quello lì? Forse no, forse si sta, non so, è cambiata la lingua, ma qui cosa vuole? Sui colleghi, le ripeto, parlare male non è il caso. So che se la cavano bene, c'è chi scrive ancora di cose importanti. Ai miei tempi io guardavo male, lei sa, quelli che pensavano alla letteratura come un passatempo. Oggi ne vedo parecchi che magari la pensano diversamente, sono cambiate le cose. Ci sono anche queste cose, ecco, queste cose mi pare positive, per esempio i premi letterari, no? che sono anche una fonte di guadagno, mi pare, per alcuni. Pare sì. Ma lei avrebbe concorso a un premio letterario? Si sarebbe presentato al premio Strega? Avevo una famiglia numerosa e quindi il romanzo non mi è andato benissimo. La seconda edizione, sa, mi è rimasta per decenni in cantina, quindi... insomma, un premio in denaro non l'avrei visto volentieri, ma chissà se me l'avrebbero dato, però. Magari davano il Nobel, chissà. Chissà, non so cosa sia. Poi glielo spieghiamo. Senta, ma andando in giro per Milano, che impressione fa questa città? Come ci si trova? Milano io me la ricordavo con i barchetti sui navigli, quando ai tempi della cameretta si accompagnavano gli amici che studiavano a Pavia a prendere il battellino. Oggi ci sono queste scatole che si muovono, è strano. Una volta... si muovono poco, mi pare. Viaggiare una volta era diverso. Lei sa però che io mi muovevo spesso e volentieri a piedi, ecco. Quindi dire che ho trovato cambiata Milano in queste ultime venute, sì, è vero, però devo dire anche peggio di Brusuglio, cosa è diventata Brusuglio. Ma la città, la parte del centro, sì, riconosco ancora qualcosa, la Scala, Palazzo Marino, però notavo, e glielo dicevo prima, la città prima era piena di librerie, ora vedo solo negozi di cravatte, di camicie, librerie molte meno. Ma di quante camicie avete bisogno oggi? Beh, sa, c'è un largo consumo. Beh, vengono anche da fuori a comprarle. Ah, per quello. Campiamo un po' su quello, sa. Ah, è cambiata proprio. E i milanesi... Una volta era la capitale editoriale, adesso la capitale della camicia. No, anche dei libri, ne facciamo tanti libri. Ah, meno male. Qualcuno dice anche troppi, guardi. Meno male. E se no non faremo questa trasmissione, guardi. Senti, un'ultima domanda. In questo libro di Silvia Giacomoni, a un certo punto l'accusa l'autrice di essere stato poco uomo d'azione. Dice: Alessandro non passa mai all'azione, forse non arriva mai neppure a pensarla, anche nel Risorgimento. Insomma, non è che poi firmò proclami, fece cose tanto coraggiose. Come risponde alla Giacomoni? Ma guardi, per me ha risposto uno scrittore un po' stravagante di questo secolo, tra l'altro, che mi è capitato di leggere per caso. Questo scriveva difficile, ma non era siciliano, almeno sono riuscito a leggerlo, mi pare si chiamasse Gadda o qualcosa del genere, e dice, ma Manzoni, sì, gli hanno rimproverato spesso questa sua mancata azione rispetto ai compagni, agli amici che ha avuto, che si sono schierati direttamente, che hanno preso il fucile, che si sono finiti allo Spielberg. E io cosa ho fatto? Ho scritto questo romanzo, e Gadda diceva, ma mi pare che fosse una considerazione sensata, ma glielo vorremmo dare a Manzoni un tavolino, una penna, la carta per scrivere, o pensate che poteva essere più utile da un'altra parte? E diciamo che in queste parole, sì, con le mie fobie, le mie paure, mi riconosco molto. Insomma, come dicono qui dalle nostre parti, o felè falto mestè. E praticamente mi sembra una buona conclusione, e anche l'altra, la mia solita, omnia munda mundis. Bene, grazie Don Alessandro. Grazie a lei. E ci guardi con simpatia. Grazie, sicuramente, grazie a lei e ai nostri 25 ascoltatori. No, sono di più. Sono di più, meno male. Grazie. Grazie a lei. E parliamo ora del nonno di Alessandro Manzoni, di Cesare Beccaria, al quale è dedicato il libro Cesare Beccaria, l'uomo e il mito, idealizzazione e realtà storica, di Giovanni Tessitore, che è un professore di Palermo. È pubblicato da Franco Angeli, 220 pagine, 18,50 euro. Beccaria fu il protagonista di un breve periodo dell'illuminismo, non soltanto italiano, soprattutto per la sua opera Dei delitti e delle pene. Diventò celebre. La sua opera sconvolse il dibattito e contribuì a cambiare molte legislazioni, ma poi Beccaria cadde rapidamente nel dimenticatoio. Fu persona, ci rivela il libro, intellettualmente modesta, eppure quell'opera entrò nel mito. Tra l'altro Beccaria non era neanche per l'abolizione in assoluto della pena di morte, eppure certamente il contributo che diede con quel libretto fu un contributo fondamentale. Poi, scritto quel libro, Cesare Beccaria cadde nell'oblio. E nel 1773, quindi appena 9 anni dopo la pubblicazione dei delitti e delle pene, Pietro Verri, che secondo le male lingue in realtà era il vero padre di Giulia, che sarebbe stata la mamma appunto di Alessandro Manzoni, Pietro Verri dunque poteva così descrivere Cesare Beccaria. Non lo riconosceresti, è un uomo volgare, volgarissimo, senza una scintilla di energia ed entusiasmo, floscio, smarrito nelle sue idee, oppresso dai dettagli, e non gli sfugge mai una parola che gli svegli un'idea bella, grande o generale. Credo che il fiore della gioventù e il soffio continuo del nostro entusiasmo per lui lo abbiano in un'epoca obbligato a sforzo, che egli, parlando e scrivendo, si ergesse sulla punta dei piedi e si eccitasse dei sentimenti eroici, ma che il suo elemento sia veramente la mediocrità. Egli non è mosso che dal timore. Da una parte teme di essere isolato e perciò seconda la moglie, teme il governo, la corte, il pubblico. E nel libro di Tessitore ritroviamo la ricostruzione del pensiero e della vita di Cesare Beccaria, che poi non fu del tutto banale. Beccaria infatti avrebbe fatto il funzionario pubblico raggiungendo livelli di un certo prestigio, certamente lontani dalla notorietà mondiale alla quale lo aveva scaraventato il suo giovanile libretto. E chiudiamo questa parte con un altro grande milanese che per un breve periodo fu contemporaneo di Manzoni, e cioè Giuseppe Parini. Di lui esce un'edizione tascabile ma molto elegante che contiene le opere principali, Il giorno e le odi. L'edizione costa 22 euro, 632 pagine, e troviamo qui appunto le pagine più importanti di questo grande poeta vissuto tra il 1729 e il 1799, di cui Maria Silvia Tatti nella prefazione ci illustra efficacemente il ruolo, non certo rivoluzionario, scrive la curatrice, ma sicuramente importante e innovativo che l'abate Parini ha svolto nella letteratura italiana, un ruolo che si può cogliere anche gustando qualche verso qua e là nelle sue opere principali, la più nota delle quali Il giorno, come ricorderete, mette alla berlina i vizi dell'aristocrazia milanese con un'arguzia e una efficacia implacabile che trovo ancora molto attuali. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, passiamo all'attualità, alla contemporaneità, cominciamo in queste settimane a fare i conti con il presidente Obama e anche con alcune posizioni sicuramente innovative che egli ha già annunciato, per esempio una posizione che ha fatto già discutere, quella sull'utilizzo delle cellule staminali, e dunque segnalo per capire anche il dibattito che sta riprendendo su questo tema il libro di Armando Massarenti, Staminalia, le cellule etiche e i nemici della ricerca, pubblicato da Guanda, 208 pagine, 14,50 euro. Armando Massarenti è un nostro collega, un giornalista del Sole 24 Ore, quindi non posso essere troppo prodigo di lodi, ma non posso evitare di sottolineare quanto questo libro sia attuale anche nello sforzo di cercare quella che lui chiama una bussola etica. Massarenti perciò vuole presentare il problema in tutte le sue sfaccettature, partendo dall'assunto che la ricerca sulle staminali, scrive lui stesso, non ha ancora prodotto risultati tali da far toccare con mano la rivoluzione che tutti ragionevolmente ci aspettiamo. Perciò Massarenti parla di profezie che ci appaiono sempre un po' troppo enfatiche. L'autore non nasconde certo il suo favore perché la ricerca vada avanti, scrive infatti che se la posta in gioco è alta come si dice, la promessa è di eliminare una quantità enorme di sofferenza dal mondo, appaiono davvero esili le argomentazioni a favore dei divieti alla ricerca, incentrate sulla personalità dell'embrione su cui si è insistito in questi anni in Italia più che altrove. Il libro di Massarenti quindi è chiaramente orientato per quanto riguarda il dibattito etico, più acceso sulla questione se l'embrione sia o meno una persona. Se lo fosse, evidentemente la distruzione assumerebbe, e questa è la tesi di chi si oppone alla ricerca sugli embrioni, il valore di un omicidio. Per Massarenti invece la blastocisti non è persona, e per dimostrarlo si rifà anche a San Tommaso, il quale scrive, dedica 5 capitoli della sua Summa contra Gentiles per dimostrare che la categoria di persona può essere applicata al feto solo in fase più che avanzata, quando l'anima razionale è stata immessa da Dio e quindi l'individuo umano è tale a tutti gli effetti. Massarenti analizza attentamente il problema concludendo con alcune osservazioni di carattere più politologico, ossia su come si possa condurre un dibattito pubblico utile su un tema così sensibile come questo, e non dimentichiamo che altri ce ne sono, pensiamo soltanto al dibattito che c'è stato intorno alla sorte di Eluana Englaro, tutti i temi sui quali le sensibilità etiche sono così differenti e tutte naturalmente ugualmente responsabili. E quindi conclude Massarenti il suo libro: per venir fuori dallo stagno, tirandoci su per i nostri stessi capelli come fa il barone di Munchausen, non ci resta che ammettere il carattere circolare della conoscenza, a patto però di saper scegliere dei principi che davvero ci permettano di uscire dalla palude. E con questo però si ritorna al fatto che se ci sono dei principi ai quali ci si appella, ci sono anche alcuni principi che per alcuni sono dei principi assolutamente irrinunciabili. E quindi il libro di Massarenti ha il merito di farci tornare a riflettere su un tema sul quale a lungo si discuterà. Io e te dobbiamo avere il controllo di tutto, Gio. Va tutto bene, Giorgio? Io e te sfidiamo il caso. Mi vuoi dire che cosa stai combinando, Giorgio? Io e te siamo come Dio. Nel nome del Padre, nel nome di Dio, della ragione, del superio. Stanotte cosa succede? Qui siamo nell'attualità cinematografica. Queste erano alcune battute del film Il passato è una terra straniera di Daniele Vicari con Elio Germano e Michele Riondino. Il film, come saprete, riprende il romanzo di Gianrico Carofiglio dallo stesso titolo e in questa occasione è uscita l'edizione di Rizzoli, 266 pagine, 19 euro. Ma di Carofiglio vi voglio segnalare un nuovo libro che si intitola Né qui né altrove, una notte a Bari, è pubblicato dalla Terza, 160 pagine, 10 euro. Questa è una notte autobiografica con l'autore che ritrova due vecchi amici, anzi due conoscenti, anzi per meglio dire due ex compagni di scuola ormai da tempo persi di vista, anche perché uno nel frattempo si è trasferito negli Stati Uniti. Con queste due persone ormai adulte, ciascuno imbozzolato nella propria vita, nei propri vizi, nelle proprie abitudini, e trascorre alcune ore notturne in giro per Bari alla ricerca di vecchi ricordi. Sentiamo dal libro di Carofiglio queste righe dedicate per l'appunto al cinema, anzi a un cinema di Bari. La situazione dei cinema di Bari è meglio di quella di altre città. Ce ne sono ancora tanti dove si può andare a piedi, passeggiando nel centro della città o sul lungomare. Per andare al mio preferito, però, la macchina è necessaria. Ci vuole un'ottima conoscenza del territorio e deve essere estate. Questo posto si chiama Arena ai Riciclotteri. Ignoro cosa significhi il nome e non ho mai cercato di scoprirlo. La stessa persona stacca i biglietti, ti vende le birre gelate custodite in un vecchio frigo anni 60 e fa gli interventi di manutenzione sul vecchio proiettore sferragliante. Tutto è assai romantico e fuori dal tempo in questa arena collocata fuori città, nel mezzo di nulla, fra capannoni industriali dismessi, depositi, rotaie sulle quali, nel pieno delle scene più emozionanti, rombano treni diretti chissà dove, a quell'ora della notte. Le file di sedili verdi di legno e metallo sono collocate su un pavimento di ghiaia e le facce dei frequentatori, me incluso, sembrano quelle di un gruppo di turisti da macchina del tempo, in gita premio dal passato. Se passate da Bari in estate, andate a vedervi un film in questo cinema, se riuscite a trovarlo. La scorribanda naturalmente finirà col diventare tutt'altro che una passeggiata turistica o una rievocazione nostalgica e assume piuttosto il senso di una intensa introspezione psicologica sul rapporto non tanto con tre amici ormai usciti dalla propria vita, ma con se stesso e con la propria città, che diventa qui il palcoscenico della formazione e della delusione, forse anche dell'autore. Attualissimo è l'ultimo libro di Alberto Arbasino, La vita bassa, pubblicato da Adelphi, 112 pagine, 5,50 euro. La vita bassa naturalmente è quella di certa orribile moda corrente, che diventa però qui sinonimo di un involgarimento collettivo che ha trasformato l'Italia e anche il suo ambiente culturale. Sentite per esempio questa denuncia così accesa di Arbasino e così efficace contro l'opportunismo che trionfa anche nel mondo della cultura. Altro che conformisti fuori dal coro in atteggiamento contro perennemente sfottente. I Montanelli, Malaparte, Longanesi, Ansaldo, Prezzolini, Missiroli, di successo in successo, ben pensante e cheap, piuttosto nelle fasce subalterne per comprare scarpe e cibo ai piccini. Quanti innumerevoli meschini affamati e affannati si mostravano capaci di servigi e faccende di low profile sotto qualunque gerarca presente o prossimo dei regimi successivi. E nelle famose egemonie culturali, anche senza frugare nei faldoni, correntemente si potrebbe constatare che intellettuale diventa sinonimo di travette mezza manica e leccapiedi per ottenere piccoli poteri, più o meno piccolo borghesi. Questa è una testimonianza dello stile unico e inimitabile di Arbasino, della sua fulminante capacità di cogliere le trasformazioni della società italiana, mettendo alla berlina soprattutto certe tendenze a indulgere ai luoghi comuni, al conformismo, alle mode, non solo negli abiti ma anche nella lingua, nei comportamenti, nei consumi culturali. E quindi ne emerge una fotografia spietata che ci invita a riflettere sul modo per costruire magari un'altra istantanea dell'Italia, invitandoci a darci tutti da fare perché la vita si rialzi. E a questo punto Il confettino. Siamo partiti con Alessandro Manzoni, restiamo nel classico con le favole di Esopo che vengono riproposte da M Edizioni con le illustrazioni di Fulvio Testa, 46 pagine, 13,90 euro. Le favole più note di Esopo troviamo in questo libro, che esercitano sempre un fascino eterno anche per la capacità di far riflettere con leggerezza tutti, come dimostra per esempio quest'ultima favola che adesso vi voglio proporre, anche perché ci indica una particolare responsabilità a noi che dovremmo dare l'esempio ai più piccoli. Disse mamma Granchio rivolta al suo piccolo: attento figlio mio, non camminare di lato sulla sabbia e non sfregarti sempre contro gli scogli bagnati. Va bene mamma, replicò il granchiolino, ma se tu vuoi che segua il tuo esempio, anche tu devi andare diritto. Io farò tutto come fai tu. E con questo ringrazio Laura Marchesi, Daniele Casagrandi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Passo la linea respiro di Laura Bettini. Ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.